Seconda parte. Allora, facciamo un po' la vita. Allora, qui siamo una generazione, forse anche due, dopo tutti i nomi che vi ho fatto finora. Le risorse nasce nel 1908. Non mi ricordo neanche dove nasce. Nasce a Bruxelles, ma i suoi genitori sono francesi, quindi poi lui cresce a Parigi. E si laurea in legge e in filosofia alla Sorbona e poi si trova, non so bene come, insomma, nel 1935 si trova collegato con una missione culturale francese in Brasile e fa per un paio d'anni il professore di sociologia o di qualcosa di sociologia all'Università di San Paolo. Praticamente questo è il contesto nel quale matura il suo interesse, ne parla poi in un libro che è più famoso dei suoi libri perché è più leggibile e meno tecnico, che si chiama Tristi Tropici, poi vi dirò dopo, vi dico tutti i libri quando escono, vi dico dopo, no? Perché non mi ricordo come le date. Comunque insomma, da lì comincia la sua carriera di antropologo e in realtà poi il suo lavoro sul campo è relativamente breve perché va avanti dal 35 al 39 poi si svolge assolutamente tutto nell'ambito è un ambito grande, gira Brasile, ovviamente gira i posti, le zone, virgolette, selvagge del Brasile, quindi prevalentemente il Mato Grosso. Negli anni 30 c'erano ancora vaste zone. Nel 1935 il Brasile non era ancora decollato come decollerà, non era ancora stata fondata anche Brasilia, per dire. Non ci sono solo le città storiche, cioè San Paolo, Rio de Janeiro e queste città qua. Praticamente le popolazioni che studia sono praticamente tre. Si passa circa un anno, poco meno, in una delle tre, ma solo una della Luisiana Moliva. Però attraverso questo, in questi 5 anni, quanti sono 4? 5, circa 5 anni. fa meno di 2 anni per... Quindi studia quelli che si chiamano con vari nomi, poi in Tristi Tropici li chiama Caduvei, in realtà sono i Guai Curu, ma i due popoli principali, i tre popoli principali che studia sono i Bororo, i Nambiquara e i Tupi Quayarib. Bororo si scrive come si legge. Nambiquara si scrive all'inglese, quindi Nambic, K-W-A-R-A. Il più complicato è l'ultimo nome che è Tupi, si scrive come si legge, trattino Kawahib col K, poi c'è una H dopo la A e poi Hib finale. Si è già sposato, ha già una moglie, vabbè. E la quale lo seguo per un po', però poi dopo lei sta male, quindi se ne va via, e quindi bisogna fare in ambiquare che li fa da soli, anche credo che lei stia male mentre stavano presso i Bororo. Di tutti questi popoli che studia, uno solo darà origine a un libro che uscirà però dopo la guerra, perché praticamente lui nel 1939 viene sorpreso dalla guerra in Brasile, quindi è un casino, insomma. È un po' come i Malinowski nella prima guerra mondiale, comunque riesce a tornare, c'è un po' di disavventure, insomma. Tornato in Francia, praticamente alla fine degli anni 40 pubblica le due opere fondamentali della sua prima parte, che però vi spiegano già, adesso vediamo quali sono, insomma. La prima è La vita familiare e sociale dell'indiano Nambiquara, dell'indio Nambiquara, che è un breve, insomma, sono 200-300 pagine, di resoconto, cioè non di resoconto, della, insomma, è già uno studio antropologico molto classico su questa popolazione, quindi ovviamente studia le strutture sociali, le relazioni di parentela, che già all'epoca sono uno dei campi più importanti e principali dello studio antropologico, cioè il modo in cui si sposano le proibizioni, diciamo, le istruzioni, eccetera, eccetera. E vabbè, insomma, studia tutta questa cosa. Nel momento in cui lui studia in Nambiquara sono già in una fase, sono praticamente gli ultimissimi residui di una cultura che cioè, nei decenni precedenti era stata anche abbastanza diffusa in certe zone del Mato Grosso, ma comunque di quella zona del Brasile, ma quando lui incontra sono già verso la fine, perché si estingueranno praticamente pochi anni dopo che lui finisce, che lui incontra, no, fa appena il tempo a pubblicare il libro e poi in Nambiquara adesso non ci sono proprio più, insomma, credo totalmente estinto. Però l'opera principale, quella che esce l'anno dopo, l'opera più significativa di questo periodo, è quella che esce l'anno dopo, perché già diciamo, rivela la vocazione, insomma, di Lévi-Strauss, ed è il primo atto concreto, il primo libro, la prima manifestazione concreta di quella particolare antropologia che lui, insomma, che è la sua caratteristica, insomma, che si è inventato praticamente, o che ha insomma, creato non proprio dal nulla, ma quasi, e che prende il nome di antropologia strutturale. Adesso poi sul termine di struttura vedremo. Non è la prima, ma insomma, quest'opera si inserisce dentro una corrente più generale che domina praticamente, o è una delle correnti principali del pensiero europeo, non solo in antropologia, ma in un sacco di altre, in molte altre, in molte altre discipline, che va sotto il nome di strutturalismo. Ma insomma, quindi diciamo, Lévi-Strauss è uno è una delle colonne, è uno degli inventori, dei fondatori, chiamatelo come vi sembra meglio, insomma, dello strutturalismo. Infatti poi due suoi libri si chiameranno direttamente comunque Antropologia strutturale, ma nel 49, cioè l'anno dopo aver pubblicato La vita familiare di Lévi-Strauss Nambiquara, lui pubblica il primo libro, che è molto più consistente, molto più grosso dello studio sui Nambiquara, che si chiama Le strutture elementari della parentela, Le strutture elementari della parentela, che è un libro ovviamente dedicato a quello che dice il titolo, cioè alla parentela, alle, vedete che quindi già comunque c'è il termine struttura che compare nel titolo, le strutture elementari della parentela. Ognuna delle popolazioni, questo perché la parentela è un campo così classico, un argomento così classico negli studi antropologici? Perché tutti i popoli, tutte le culture primitive, selvagge, senza scrittura, chiamatele come volete, senza che né primitivo né selvaggio abbia delle connotazioni negative, ma insomma viene usato. In modi molto diversi, ma praticamente in tutte queste popolazioni, in tutte queste culture, che l'Occidente ha incontrato nel corso dell'Ottocento, eccetera, c'è un sistema c'è un insieme di regole che appunto reggono il modo di sposarsi, terribilmente rigido e terribilmente complicato, molto più che non nella nostra... E lo chiamiamo proprio sposarsi? Sì, creare un legame stabile, il matrimonio è una delle istituzioni, uno dei comportamenti più, diciamo, rilevati quasi universalmente nelle varie, diciamo, società. Un punto di vista, diciamo, funzionalista alla Malinowski ci spiegherebbe, e ci spiega forse anche dal punto di vista, è una spiegazione abbastanza facilmente perché queste società hanno un insieme così rigido di regole, quindi che proibiscono a membri particolari di una certa società di sposarsi, di fare una famiglia insieme, per esempio se sono uomini, insieme con donne di altre zone particolari di quella società. Cioè, diciamo, il matrimonio nelle società orali è una delle istituzioni sociali più rigorosamente regolamentate. È una delle cose che a noi occidentali stupisce di più, perché da noi il matrimonio non è assolutamente regolamentato, e nella misura in cui lo è quasi sempre di fatto. E adesso sgombriamo il campo dalla questione dell'amore, eccetera, insomma, sapete che il matrimonio c'entra ben poco con l'amore, insomma, ma probabilmente anche l'amore è un'invenzione recente della cultura dell'Occidente, insomma, sostiene uno studioso francese, Denis de Rougemont, che l'amore è un'invenzione della cultura trovadorica in Provenza, Nord Italia, Spagna, all'inizio della fine del XII, inizio del XIII secolo. Cioè, nella Grecia l'amore non ha alcun posto nella relazione tra uomini e donne, no? Nella Grecia classica. Nella Grecia classica gli uomini, i maschi, non amano le donne, amano i ragazzini, gli adolescenti, insomma, quella è la loro cosa. Alcuni poi sono fuori, cioè, quelli che riescono a farseli, insomma, li amano di più, certo. Quelli che non riescono a farseli, se li amano di meno. La donna ha un tipo di ma se avete teatro di sé, eccetera, anche l'Iliade, l'Odissea, avete, sì, certo, cosa. Non è amore, è un simbolo, è sua moglie, quindi è la regina, cioè la, come si chiama lì, cioè, Penelope, la regina che torna a casa, però non è che ama Penelope Ulisse, che ama Penelope, cioè che Ettore ama Andromaca, ama il figlioletto, Astianate, sì, si dispiace per Andromaca perché poi morirà, eccetera, ma non c'è nessuna, non con l'amore che è la certo che no. Non solo, ma anche dopo che i trovatori italiani e provenzali si sono inventati, poi l'amore dei trovatori è un amore un po', come dire, particolare, cioè, no? Cioè, il trovatore ama una donna che non gliela dà, neanche morta, insomma, cioè, non c'è nessun rapporto sessuale tra il trovatore e, diciamo, la dama, è una roba, una sorta di, diciamo, di oggetto del desiderio, più o meno, è come Beatrice Verdante. Beatrice Verdante è la trasformazione, il tentativo di universalizzare questo rapporto dell'amore trovadorico, insomma, e non c'entra nulla con la famiglia, sia Dante che Beatrice sono regolarmente sposati, anzi, addirittura, dunque, lui è sposato, adesso non so, forse dicono stupidati, Dante è sposato con Gemma Donati, giusto? Sì. E mi sembra che il cognato di Dante, cioè Forese Donati, con cui Dante a un certo punto ha una famosa ma poco studiata nelle scuole, tenzone cioè, poetica, è poco studiata perché se ne dicono di tutti i colori, dicono delle grandi... No, dicono delle granzozzerie in questi sonetti, insomma, se ne dicono di tutti i colori, ma proprio no, speculano sulle attività sessuali rispettivamente Dante di Forese e Forese di Dante, quindi non si studia nei licei la attenzione poetica della... Ma poi mi sembra che in qualche modo la famiglia Donati era o imparentata o infilata con la famiglia di Beatrice, ovviamente non firmava Beatrice, ma non mi ricordo neanche più, ho un buco nella memoria, sa comunque. Allora adesso non stiamo di valore sempre. Il patrimonio non c'entra. Il patrimonio non c'entra con la morte. Però Sacco parlava. Non c'è mai entrato con la morte. Cosa? Sacco parlava di amore. Sacco parlava di amore per donne, figura. Ma lei parlava per amore. Ma non se le sposava, non c'entrava nulla con il patrimonio. No, no, no, però il concetto di amore. Sì, certo che c'era, sicuramente non c'è. Non ha niente a che fare con la formazione della con le famiglie. Ne ha, allora, che la cosa paradossale poi è che anche il matrimonio borghese ha nulla a che fare con l'amore, però a partire dall'Ottocento c'è stata questa costruzione ideologica per cui, diciamo, l'amore sarebbe l'origine del matrimonio, se si sposa la donna che si ama. Allora, un caso d'Ottocento. Infatti, non è vero neanche oggi. Non è vero neanche oggi. Ma certo, ma è chiaro. Anche oggi la gran parte dei matrimoni sono matrimoni. In certe classi sociali è chiarissimo, tra i ricchi cosa c'entra l'amore? Tra i ricchi? Tra i ricchi si sposano i patrimoni, non i matrimoni, no? Si sposano su quali soldi. E anche, poi, no, però quello che è comunque successo è che mentre per tutta una fase della storia dell'uomo non c'è stata neanche la volontà o la necessità di confondere due cose così diverse, appunto come il matrimonio e, diciamo, l'amore, a partire nel momento in cui si afferma una delle classi sociali più ipocrite che si siano mai viste sulla faccia della terra, cioè la borghesia capitalistica, questa classe sociale invece, la quale è la meno incline al sentimentalismo, alle fantastiche, eccetera, però proprio, come dire, quanto più stronce, quanto più le mani in pasta nelle cose più infami e zozze, come per esempio il denaro, hanno, e quanto più fanno questo, tanto più devono idealizzarsi, devono pensare come il consumo dell'arte, no? Adesso qualcuno ha comprato quanto? 125 milioni di dollari, no? Allora, qui c'è un tipo qua, se lo volete che ne impegna lui, cioè, magari sarà pure poi, figuriamoci, non voglio dire, è un bel investimento, lui lo rimuove, 125 milioni di dollari. Quindi come l'arte, insomma, no? Cioè, uno per avere 125 milioni di euro da buttare in quadro deve essere un criminale. Non c'è gente che non sia criminale che ha, no? Che ci accede sui milioni di dollari. Sono tutti crimini, sono dei crimini, cioè i grandi ricchi, no? No, non l'ho detto io, l'ha detto Bertolt Brecht, cioè andate a vedere quanti sono i crimini necessari per la fondazione di una banca. Per fondare una banca bisogna fare una serie di roba per cui i normali cittadini, ma ancora adesso insomma, no? Cioè, le banche attuali non sono la causa, non sono loro la causa, però sono l'effetto, cioè sono quelli che materialmente sono l'ultimo anello che strozzano, letteralmente sono gli agenti di tutti quelli che si suicidano, eccetera, sulle banche. E idem, per fondare queste cose, per fondare uno Stato non bisogna essere criminali. Roma, come sarà fondata Roma? Due fratelli gemelli, uno dei quali sbuzza l'altro e poi lo butta dentro il solco del ragazzo, così dice la città che esce meglio, ma buono, bravo. Grazie al sangue. Certo. Quindi, adesso non stiamo a parlare nulla. Allora, quindi diciamo, è assodato che il matrimonio con l'amore non c'entra. Ma perché nelle società corali ci sono tutte queste particolari proibizioni, che sono collegate in genere con la struttura della discendenza? Le società senza scrittura si dividono in genere, insomma, in generale il gruppo sociale, cioè il gruppo delle persone che abitano nel villaggio, o in generale la tribù, una tribù in genere è un gruppo più ampio che abita anche in diversi villaggi, insomma tutti i villaggi sono tutti in genere divisi. Che stato via? Non volevo cacciarti, bambino mio. Questo sparisce sopra voi. No, proprio in mezzo allo schermo, come una tendina. E di solito l'hanno. E come va che lo tirano giù? Buona, cioè, la fisica lo trova già, una posizione. Eccolo qua. Va bene, cosa stiamo dicendo? Non mi ricordo. Allora, allora, se hai delle vicinette, no, allora, prima ancora. In genere sono divisi, in genere hanno una struttura complicata che è collegata con i miti di queste tribù o di queste etnie, di queste popolazioni. In genere queste sono tutte divise in due parti, chiamate metà. Sono, come dire, società metà. Le metà, a loro volta, possono essere o no suddivisi in gruppi più piccoli, la metà in 2 o 4, o anche 8, se non 6 in certi casi, più spesso 8, di solito sono multipli di 2, sono potenze di 2, 2, 4, 8, 2 alla seconda, terza, quarta, quarta no, non 2 alla seconda, 2 alla terza. E la discendenza, cioè le caratteristiche, diciamo le cose, non i beni materiali, anche i beni materiali, che eredita una certa persona, o le caratteristiche, le proprietà, certi insiemi di obblighi, le singole persone non li ricevono da tutti e due i genitori in modo uguale, ma da uno più dell'altro. Allora, le società nelle quali, diciamo, la linea di discendenza è basata più sulla linea paterna si chiamano patrilineari. Quelle in cui è più basata la linea materna si chiamano matrilineari. Molto spesso, però, dico delle generalizzazioni, ma insomma, per darvi una rapida idea, non ci vogliono anni per studiare tutte le strutture, appunto, complicate di questa cosa. Molto spesso, per esempio, quello che conta di più sono conta di più, per esempio, la figura nelle società patri, per esempio matrilineari, si verifica spesso, non sempre, ma è il caso in cui, per esempio, la figura più importante per un ragazzo maschio non sia quella del padre, ma sia quella dello zio materno, cioè del fratello della madre, che è quello dal quale spesso il ragazzo eredita, che è responsabile più del padre della sua educazione, ma ci sono delle cose complicate di questo tipo. Bene, ora, in diciamo, società fatte in questo modo, con uno o più di questi modelli, adesso vi ho dato solo qualche idea generale, e voi capite che c'è un'infinità di modi poi di realizzare questa, se sono patrilineari, matrilineari, se sono alternate, se sono eccetera eccetera. Insomma, in questa, come dire, in questa struttura, in questa cosa, queste società sono prevalentemente esogame. Esogame vuol dire il contrario di endogame, cioè c'è una proibizione per il maschio di una certa situazione di sposare una donna della sua stessa metà o della sua stessa sottometà o del suo stesso terzo. In generale nelle situazioni, insomma, nelle condizioni di esogamia più rigorosa c'è l'obbligo di sposare una donna dell'altra metà. o in certi casi addirittura di un'altra metà che stia in un altro villaggio, insomma, no? Allora, per esempio, tutta questa cosa è stata, le prime ricerche etnologiche hanno cercato di spiegare l'endogamia, scusate, il rifiuto, diciamo, la proibizione dell'endogamia, quindi l'esogamia, con per esempio il tabù dell'incesto. Perché in realtà il tabù dell'incesto probabilmente non c'entra nulla, e il tabù dell'incesto poi probabilmente non è, adesso noi siamo convinti che sia così generalizzato, ma probabilmente a parte che andrebbe poi spiegato come mai una pratica che non ha alcuna radice biologica, perché nessun animale, cioè tutti gli animali praticano l'incesto, tutti, dal primo all'ultimo, comprese le scimmie, comprese i nostri parenti più prossimi, le scimmie sono insomma, scimpanzé, gorilla, eccetera. Invece l'uomo in genere no. In realtà la questione del tabù dell'incesto è molto complicata, eccetera, ma anche la questione della, diciamo, dell'esogamia o dell'endogamia. Ma volevo chiederle, ma queste mentali che suddividono, sì. Cioè in base a quale suddividono? Oh, allora adesso tagliamo. In base a dove sei nato. Se la tua società è patrilineare, sì. le tue metà sono equi, e mettiamoci sia l'obbligo di quelli della metà di sposare uno quanto più, speriamo che sia molto molto scelto. Allora, quando un uomo della società sposa una donna della società B e hanno un figlio, allora lì dipende se la discendenza è patrilineare o matrilineare. In realtà, oltre a questo, bisogna anche stabilire se la società è patrilocale o matrilocale, cioè se il figlio va ad abitare nella metà del padre o nella metà della madre. Allora, supponiamo la cosa più semplice. Se la società è patrilineare e patrilocale, il figlio di un uomo A e di una donna B verrà allevato nella metà A, erediterà dal padre e abiterà dove nasce il padre. Se invece è patrilineare ma matrilocale, il figlio di un uomo A e di una donna B erediterà dal padre A, ma crescerà nella metà B, cioè dove sta la madre. Anche il cambio di residenza è complicato, cioè ci sono diversi modelli. In alcuni casi l'uomo va a stare con la... in genere dipende se sono patrilocali o matrilocali. Se sono patrilocali la donna va a stare con l'uomo, quella che si è sposata. Se sono matrilocali l'uomo va a stare con la donna, perché allora prevale la residenza, diciamo, della donna in qualche modo. Quindi è per nascita. A seconda che siano patrilocali o matrilocali, patrilineari o matrilineari, si ha un aumento. È chiaro che se la società è particolarmente ramificata, se sono solo due, come dire, metà più o meno saranno quasi uguali. Insomma. Se ognuna delle due metà è divisa, mettiamo, in otto gruppi, che si possono chiamare fratrie, per esempio, chiamiamole fratrie, in otto fratrie, per esempio, ci sono 16 gruppi, 16 fratrie, no? 2 per 8, 16. Allora può essere congiunturalmente che a un certo punto una fratria si estingua, perché ci sono pochi, a meno che non ci sia un sistema di proibizioni. Se le regole della parentela sono molto elastiche, vabbè, uno si può sposare un uomo della metà sposa una donna qualunque della metà B. Ma chiamiamo a 1, a 2, a 3, a 4, B1, B2, B3, B4. La regola più semplice può essere un uomo A sposa una donna B, punto. Non ce ne frega niente se ha uno o due. Però la regola può essere anche più complicata. Per esempio, un uomo A1 può sposare tutte le donne di B tranne B1. Solo B2, B3 e B4, ma può essere ancora più complicata la regola. Che a uno deve sposare un uomo, uno deve sposare una donna B2. Allora probabilmente in certi casi può essere un uomo a 2 deve sposare una donna B3, un uomo a 3 deve sposare una donna B4 e un uomo a 4 deve sposare una donna B1. potrebbe essere, ce n'è, uno si può spingere, ovviamente gli antropologi ne hanno trovate di tutti i colori, cioè, diciamo, i sistemi strutturali della parentela sono obiettivamente un numero incalcolabile, perché mescolando tra di loro diciamo tre parametri diciamo fondamentali, la divisione del villaggio o della tribù in metà o in sottometà, secondo il carattere matrilineare e patrilineare, certo il carattere patrilocale e matrilocale, combinando queste tre cose voi avete un insieme di possibilità di formazione della famiglia enorme, altissimo, non infinito ma molto grande. E ovviamente gli antropologi hanno tentato di spiegare questa cosa, però era difficile trovarla. Allora andiamo a vedere, dal punto di vista funzionalista classico alla Malinowski, dà una spiegazione anche convincente, fra le tante possibili, adesso poi Malinowski questa non la data, non vi dico, ma altri, altri l'hanno data, e uno dice, va bene, in una situazione nella quale le attività quotidiane, lavorative, di un certo gruppo, di una piccola popolazione, di un certo gruppo locale, ah ma fai così apposta, sono relativamente standardizzate, e anche un po' differenziate ma rigide, c'è una divisione del lavoro fra i sessi, per esempio gli uomini fanno la caccia, le donne la raccolta, c'è un certo modo di trattare gli alimenti, ci possono essere varie regole di vario tipo, ma diciamo, se sono abbastanza rigide, il sistema produttivo in questo caso non ha alcuna libertà di giocare come fenomeno, come fattore di coesione sociale, come invece questo capita nelle nostre società. Quando la divisione del lavoro è molto spinta, quindi società agricole molto molto sviluppate, o peggio ancora società industriali, la complessità della dimensione produttiva fa sì che la dimensione produttiva in quanto tale giochi un ruolo sociale rilevante, perché a seconda di come gli uomini, gli esseri umani si mettono in relazione in ordine alle attività produttive che fanno, abbiamo un allentarsi o uno stringersi dei vincoli sociali. Ma questa cosa è possibile perché la struttura produttiva è una struttura di per sé complessa. Complessa, scusate, ma anche elastica. Cioè, per esempio, c'è una forte mobilità sociale, forte o debole, insomma, una relativa almeno mobilità sociale. Se questa mobilità sociale non c'è, perché praticamente non ci sono classi sociali da un punto di vista, e c'è soltanto una divisione, come dire, fattuale, elementare, tra alcuni compiti di autogoverno, la struttura produttiva non può giocare alcun ruolo di compattamento di una società, come dire, se l'unico legame è quello produttivo, in un gruppo di 200, 300, 400 persone, uno che trova un'altra opportunità, se la trova, se ne va, piglia, molla il gruppo e fa quello che gli pare, no? Non ha alcuna. Allora, in termini funzionali, un sistema stretto, un sistema rigido e complesso di formazione della famiglia, cioè un sistema rigido di parentela, assicura una coesione, un rimescolamento sociale all'interno e una coesione sociale che nessun altro fattore è in grado di assicurare. Questa è solo una fra le tante possibili risposte funzionaliste, ma obiettivamente al vaglio di quello che si è visto è una delle più plausibili. Quindi più loro sono coesi e meno generano incesti, eccetera, riescono ad avere una qualità produttiva tale da permettere la sopravvivenza? No. Più delle regole totalmente estrinseche alla vita affettiva e produttiva vivono all'interno della società, cioè più ci sono regole strette, per cui un uomo deve sposare una donna di una certa cosa, e più la società è coesa, cioè questo è il fattore che assicura la coesione sociale, perché non c'è nessun altro, perché questa cosa in una società come la nostra è inutile? Perché noi siamo una società complessa, abbiamo una struttura produttiva che svolge di per sé questa costruzione molto meglio di un sistema di paratele. E se infatti andate più lontano e passate cerca, vedete che per esempio tutto il sistema delle gentes romane, delle gentes latine, era un sistema di questo tipo, è il residuo di un vecchio sistema tribale, in cui è importantissima che io mi chiamo Caronia e che vado in giro a cercare tutti i Caronia d'Italia e a Palermo ce ne tanti. Posso farlo su Facebook, lo faccio per 3 giorni, a un giorno mi sono già i coglioni e smetto di cercare il Caronia in giro, non me ne frega nulla, insomma, no? Perché non ha nessun, non c'ha senso, una cosa puramente esteriore, ridicola. A Roma, quelli della gens Iulia o della gens Gaia, o le gentes, le genti, le grandi strutturazioni di famiglia, c'era un legame forte, sentito molto fortemente a livello soggettivo. Essere, fare parte di una gens era un fattore, voi insomma capite, di legame sociale, è qualcosa che è collegato con la struttura della parentela, perché vuol dire siamo discendenti di un'unica cosa, di un'unica, adesso poi veniamo ai diciamo, racconti che collegano questo genere di cose, anzi diciamo di subito. Allora, in generale nelle società orali, nelle società senza scrittura, nelle società, usiamo un altro termine che ha incluso proprio Levi-Strauss, allora, decidiamo di chiamare calde le società di questo tipo, cioè di tipo primitivo, le società nelle quali la struttura produttiva è molto semplice, molto semplificata, ma il sistema della parentela, cioè il sistema di formazione della famiglia attraverso regole rigide di relazioni imposte tra diversi segmenti della popolazione è molto stretto. Una società di questo tipo la chiameremo calda. Una società in cui regole di questo tipo non contino nulla, non ci siano, o se ci sono, sono del tutto esteriori e vengono osservate in maniera totalmente superficiale, la chiameremo fredda. È ovvio che una società si raffredda tanto più in quanto trova fattori di coesione sociale esterni a quelli di una artificiosa formazione dei legami. Diciamo familiare, insomma, no? Della di formazione della sua famiglia. E diciamo, butto lì un po' tutta la carne al fuoco e poi dopo vediamo di sviluppare. Se non in tutte, ma nella gran parte di queste società, questa struttura, quindi, l'insieme delle regole di parentela, che sono una istituzione sociale che noi, come dire, fatichiamo a capire come può essere una istituzione. Noi sappiamo che la famiglia è un'istituzione sociale, ma che le regole di formazione di una famiglia lo siano per noi è complicato, perché diciamo come. Noi pensiamo alle famiglie, sono un fatto libero, ognuno si sposa chi vuole, o per amore o per convenienza, ma comunque si sposa chi vuole. In realtà uno non può sposare chi vuole, ha delle limitazioni, delle restrizioni, non può sposare certe donne. Addirittura deve sposare in certi casi una donna, un uomo, una donna deve sposare un uomo di una certa suddivisione. Insomma, ci sono delle regole, come dire, precise. Quindi sono società, queste si chiamano calde. In genere, nelle società calde, o in quelle orali, questa formazione, queste regole di parentela sono intrecciate non solo con la suddivisione in gruppi, della società, non in classi, in gruppi. ma sono collegate con i miti di crudeltà, cioè con i racconti che nascono, che sorgono in queste società per raccontare l'origine di queste società. In genere le metà, i gruppi, eccetera, eccetera, vengono come dire, collegati alla esistenza di antenati mitici che quasi mai sono uomini. Sono, nella gran parte dei casi, animali, in certi casi addirittura anche vegetali. Gli uomini delle società calde, gli esseri umani delle società calde, si considerano eredi, discendenti di altre forme di vita che non siano quelle umane. Anche lì in modo differenziato da società a società, ma osservano delle restrizioni, delle proibizioni, in genere alimentari, legate a questi animali e a queste piante. Tipo, se chiamiamo clan la suddivisione più fine di una certa società, quindi se i clan sono i sottogruppi delle due metà, possono anche essere asimmetrici, può essere per esempio che una certa etnia ha la società è divisa in due metà e poi la prima metà ha sei sottogruppi, sei clan, chiamiamoli, l'altra metà ne ha cinque, ne ha quattro, ne ha sette, può darsi. Però c'è un clan, allora questi clan in genere hanno dei nomi, non sempre, a volte hanno dei nomi anche strambi di oggetti inanimati, ma insomma, ma in genere sono animali oppure vegetali. Allora c'è il clan dell'orso, il clan della marmotta, il clan della volpe, il clan del lupo, a volte c'è il clan del lupo giallo, in Australia c'è il clan del canguro piccolo, che ha un nome, non mi ricordo più come diavolo si chiama in lingua australiana, poi c'è un clan del canguro grande, sogno. Allora, se tu fai parte del clan dell'orso, per esempio, hai certe restrizioni alimentari o di comportamento legate all'orso. La più semplice è non puoi mangiare carne di orso. In molti clan, i membri del clan dell'animale X non possono mangiare l'animale X. Ma non è sempre così. In altri casi, i membri del clan dell'animale X, il contrario, possono mangiarlo ma non possono cacciarlo. Quindi devono essere membri di altri clan che cacciano l'orso, poi no, per quello che cacciano non è. In altri casi può essere il contrario. Possono mangiarlo e devono cacciarlo. In certi casi c'è la proibizione per le persone che non facciano parte del clan dell'orso di cacciare l'orso. Gli unici membri della tribù che possono cacciare l'orso sono quelli del clan dell'orso. Quindi le forme concrete in cui appaiono queste restrizioni, che possiamo chiamare tabù, appaiono questi tabù, sono le più varie. Ma in genere ci sono dei tabù, quasi spesso, ma non sempre, spesso alimentari, sempre comportamentali, legati all'animale eponimo o al vegetale eponimo. Se c'è, senza nessuna offesa, il clan della fava, i membri del clan della fava non potranno mangiare fave, oppure dovranno mangiare fave, oppure potranno mangiarle ma non dovranno raccoglierle, oppure dovranno raccoglierle ma non potranno mangiarle. Non si può sapere a priori, non c'è una struttura generale, però c'è in genere, c'è sempre un insieme di proibizioni e di regole comportamentali legate a quel certo. Ma da chi sono decise? E chi lo sa? Da chi sono decise? Chi lo sa? Come diavolo fai a sapere chi ha deciso una cosa? Si perde nella notte dei tempi, per questo si racconta di miti. Il mito può essere. Solo quando arriva questa cosa al mito. Certo, però. In genere i miti raccontano l'origine dell'uomo. L'origine dell'uomo in un mito standard è c'è un lago, a un certo punto dal fondo del lago emergono 5 animali. Un animale fa una puttanata, si dà un colpo in testa, non so, fa delle robe strane e si ammazza. Gli altri, così fanno, sono varianti così, gli altri 4 che rimangono vanno in giro, incontrano prima uno, gli dicono ah tu sei, e l'uomo che incontrano diventa il capostipite del clan, se questo animale è un orso, il capostipite del clan dell'orso. E l'altro incontra un altro e metti che è una marmotta e è diventata la marmotta. Sì, però quello che voglio dire è che c'è una varietà così ampia di così ampia, ognuno. Allora ci saranno un sacco di nicchie. È ricchissimo, cioè non ne parliamo neanche, cioè è una roba forse, certo, ricchissima. Allora, in genere l'animale, la pianta o l'oggetto che è l'emblema di un clan e che è l'oggetto di tutte queste restrizioni, proibizioni o obblighi alimentari o comportamentali viene chiamato totem, dal nome di una lingua indiana, eccetera. Il totemismo è stata una delle grandi questioni dell'antropologia classica, cioè prima del discorso, è quella che ha dato più di altre origini a interrogativi. Ma che cosa vuol dire questo totem? Perché c'è il totem? Allora, la risposta funzionalista, malinowskiana, va bene, però è un po' troppo generale. Dice, il totemismo in una società è quell'istituzione che assicura la coesione sociale in assenza di altri fattori di coesione sociale alternativi. È quello che vi ho detto prima. No? Va bene, questo va bene, ma allora, giustamente, come rispondere all'interrogativo tuo? Ma perché? Ma come mai? Sono così tante queste cose, sono così ricche, sono così complesse. E qui, ovviamente, l'universalista viene messo alla prova, perché deve provare a... Il totemismo, per certi versi, è un tentativo di riposare, il totemismo nel senso, la teoria, che individua nella divisione totemica della, diciamo, società, una costante universale legata all'espletamento di certi compiti sociali, per esempio di una divisione del lavoro elementare, o ci sono varie ipotesi, una può essere questa, un'altra può essere il totemismo è una divisione della società che serve per rendere esplicita, rendere visibile a tutta la popolazione, a tutti i membri della società, una certa particolare struttura simbolica di quella stessa società. Tutte le società hanno una produzione, una struttura, diciamo, simbolica, ma anche qui, quando il simbolismo è abbastanza relativamente staccato dalla dimensione quotidiana, perché la dimensione quotidiana è sufficientemente complessa e ha già i suoi cazzi a cui sta dietro e non ha bisogno di complicarsi, allora questo sarebbe il caso nostro, grosso modo. Allora la dimensione simbolica è posta ad un livello molto alto, ma se invece ci sono società in cui invece la dimensione simbolica non può porsi a quel livello perché è inestricabilmente legata alle incombenze della vita quotidiana, nasce direttamente o è collegata con certe cose della vita con il quotidiano. Per società di questo tipo, in cui simbolismo, diciamo struttura, voglio usare il meno possibile il termine struttura, perché evidentemente poi per Levi-Strauss vuol dire un'altra cosa, dimensione simbolica, per società in cui dimensione simbolica e dimensione quotidiana siano strettamente collegate, Il totemismo potrebbe rappresentare un buon modo di collegare meglio queste due, cioè di giustificare, di dare una spiegazione, insomma, detto in termini un po' più semplici e un po' più banali. Se la struttura mitica, se il mito in una società di questo tipo rappresenta una risposta generale di tipo cosmologico, diciamo, alla domanda come è fatto il mondo, di dove viene il mondo, come è fatto l'uomo, di dove viene l'uomo, questo è il mito, no? Il mito è semplicemente una risposta a una domanda di questo genere. Non tanto, in questo senso il mito, in questo senso per noi che siamo una società scientifica, la scienza è una ha preso il posto del mito, ma diciamo, svolge la stessa funzione del mito in questa società, tenta di rispondere a queste domande. Per la religione è un fatto un po' più, diciamo, complesso. La religione, allora, ok. Se il mito è questa cosa, il totem, il totemismo cos'è? È l'applicazione di è la traduzione di questa, di questo racconto sulle origini e sulla, chiamiamola, natura dell'essere umano ai suoi comportamenti. Cioè è la traduzione della narrazione mitica in comportamenti ammessi e comportamenti non ammessi. No? Quando il mito si traduce in una serie di regole che ci dicono questa azione è lecita, questa azione non è lecita, noi abbiamo, questa è l'articolazione fondamentale di una società scialda, no? Di una società scialda di questo tipo. Allora, come ve l'ho presentata io adesso, questa risposta ovviamente sembra tutta tranquilla eccetera eccetera. Qual è il problema? Dove sorge il problema? Allora, a livello del mito, i problemi ci sono forse, ma sono meno visibili. Il mito è una storia. In fondo, che ci racconti che dal fondo del lago sono emersi una volpe, un orso, una giraffa e un tortolino di legno, che può anche essere visto una cosa di maledetto, ci fa vedere. O che ci racconti che invece la montagna si è spaccata e sono uscite dei tuberi, delle radici di igname che poi sono storie, ci raccontano il senso del mondo, ma sono storie. Nel momento in cui queste storie però si traducono in comportamenti ammessi e non ammessi, leciti e illeciti, legittimi e illegittimi, normali e devianti nella nostra, in una tecnologia più, come dire, moderna, c'è una dimensione in più. Se la dimensione narrativa poteva coprire realtà diverse, quando vado a vedere il comportamento preciso, e dico, cavolo, ma che senso ha? Che ragione ha? Dove sta la funzione di quel comportamento? Cioè, obiettivamente è una cosa diversa. Quindi l'ipotesi, come dire, del totem come dispositivo sociale è un'ipotesi difficile da, come dire, sostenere, perché se a livello del racconto può andare bene la varietà e la ricchezza del, a livello della funzionalità sociale non va tanto bene, cioè, o perlomeno io posso anche dare una spiegazione in termini funzionalisti di una certa ipotetica, ma poi devo spiegare perché quella certa funzione è diventata e si è incarnata in quella certa regola tecnica, cosa che non sono in grado di fare, intanto se no una serie. La cosa ovviamente è resa più complicata dal fatto che noi non conosciamo la storia di queste società, cioè non sappiamo come erano 1000 anni prima che incontrassero l'uomo bianco. noi abbiamo un punto di vista sincronico su queste realtà, non ce lo possiamo dire diacronico, non sappiamo nulla del loro sviluppo storico, perché si suppone che siano società che non hanno una scrittura. Già quando hanno la scrittura, come nel caso dei Maya, è difficile anche in quel caso, perché non tutti i documenti sono comparabili, dicono delle cose strane, diverse, eccetera, ma però non è qualcosa di più posso dire. Sugli Inca c'è una serie, sugli Inca c'è una serie di documentazioni su diverse versioni del mito di Quetzalcoatl, lì come cazzo, no, quello è, scusate, l'ho sbagliato, questo è l'università. Adesso non faccio troppi esempi sulle cose che non so se non riferisco tutti. Comunque insomma, se c'è la scrittura qualcosa di più posso dire. Se la scrittura non c'è, non posso dire nulla. Quindi una spiegazione troppo funzionalista del totemismo non può funzionare, cioè è molto debole, è difficile che funzioni. Mi crea più problemi di quelli che mi risolve. Allora, credo che abbiamo finito il tempo, quindi non ce la facciamo più. Quindi la prossima volta vedremo come Lévi-Strauss tenta di risolvere questo interrogativo, insomma, cioè vedere di dare Lévi-Strauss subito sceglierà la via più radicale, cioè sceglierà la via più radicale, cioè distruggerà l'ipotesi totemica, dirà il totemismo non esiste, è un effetto ottico, un effetto di prospettiva. In realtà dietro al totemismo c'è quella che lui chiama la struttura sociale. E la struttura sociale è qualcosa di molto distante dall'esperienza sociale che i membri di quella società e gli osservatori esterni fanno del comportamento superficiale, e indica invece una dimensione molto più profonda, molto più nascosta, di cui vi farò vedere la prossima volta anche qualche esempio con l'analisi di certi testi. Basta. Sì.